Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. In 48 ore, 4 donne uccise, una quinta gravissima, e 4 stagiste minorenni abusate dal datore di lavoro. Attacco a Gerusalemme, morti 2 agenti israeliani. Hamas esalta l'attacco, chiusa la spianata delle moschee. Incendi, sono 2 le vittime in Calabria, il governo prepara un piano straordinario. Potrebbero essere falsi 21 dei Modigliani esposti nella grande mostra di Genova, l'hanno visitata 100.000 persone. Calcio per Bonucci al Milan è sostanzialmente fatta. Per il ciclismo, Aru in maglia gialla tenta l'assalto al Tour. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, se ci volete scrivere via SMS, c'è anche la nostra diretta video su Facebook, come sempre, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, oggi in diretta dai nostri studi di Roma per l'ultima puntata della stagione di Effetto Giorno. Chiudiamo oggi e poi ci ritroveremo all'inizio di settembre. Non scomparirò io, mi ritroverete in qualche sostituzione di Sebastiano Barisoni in Focus Economia nel corso di agosto, e poi con una piccola sorpresa, una trasmissione che stiamo preparando con Enrico Pagliarini. Siamo in diretta da qua dunque, e per chiudere degnamente la stagione più avanti torneremo alla vicenda che ha occupato gli ultimi 4 mesi, la quale ci siamo occupati negli ultimi 4 mesi, ossia la scomparsa di Igor il Russo, Igor il Serbo, ricercato inutilmente nelle campagne del Ferrarese e mai trovato. La giornata di oggi la apriamo dal punto di vista della cronaca con i casi di femminicidio, i nuovi casi di femminicidio. Dopo i 2 di ieri, altre 2 donne uccise oggi, una quinta gravissima. L'ultimo caso arriva da Roma. Una coppia di anziani è stata trovata morta questa mattina nel quartiere Monteverde. Si ipotizza l'omicidio-suicidio. L'uomo, 79 anni, si è lanciato dal 5° piano in casa. È stato trovato il corpo della moglie, 81enne, la testa avvolta in una busta di plastica. A Montepulciano, provincia di Siena, un operaio di 56 anni ha ucciso l'ex moglie a coltellate alla vigilia dell'udienza per la separazione. La donna, 42 anni, romena, si trovava nell'abitazione delle 2 signore anziane che accudiva come badante. L'ex marito ha fatto irruzione, l'ha inseguita e colpita ripetutamente con un coltello da cucina. È morta questa mattina in ospedale per le gravi lesioni riportate. Braccato dai carabinieri, l'uomo si è poi costituito. Ho fatto un disastro, avrebbe detto ai militari. E a Cagliari, un giovane di 25 anni ha picchiato a sangue la fidanzata durante una lite. Credendo di averla uccisa, si è suicidato gettandosi da un cavalcavia. La ragazza, 26 anni, è ricoverata in coma farmacologico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in una giornata triste per la violenza sulle donne, una giornata nella quale la cronaca ci racconta anche di un 54enne di Monza che è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale su minore per violenze su 4 stagiste che erano nella sua azienda, che lavoravano nel suo negozio in Brianza, che avrebbero subito violenze sessuali da questa persona. C'è anche un'altra notizia, e visto che è venerdì, ci avviamo al fine settimana, è l'ultima puntata, fatemela dare, perché su questo fronte, proprio su questo fronte, abbiamo l'eroe del giorno. È un uomo di 87 anni che a Busto Arsizio si trovava in casa con la sua badante, e l'uomo della badante, che non accettava di essere stato lasciato, ha provato ad entrare dal balcone ubriaco. Ebbene, quest'uomo di 87 anni ha preso il bastone, l'ha bastonato e l'ha fatto scappare via. Le notizie ci raccontano anche questo oggi. Veniamo alle cronache dagli incendi. Si parla di 2 vittime e le ultime notizie raccontano di problemi nell'Agrigentino. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Calano le temperature, per fortuna, anche nel centro-sud, e si attenua in parte l'emergenza incendi, che ha richiesto però ancora questa mattina altri 19 nuovi interventi della protezione civile. In Sicilia, dove si stanno evacuando in questi minuti delle case, anche nel centro di Sciacca, nell'Agrigentino, dove le fiamme da un'area boschiva si sono estese fino a lambire alcune abitazioni. Ancora interventi in Campania, anche alle falde del Vesuvio, in Gallura, dove un migliaio sono le persone persone che hanno passato la notte fuori casa, e ancora in Calabria, dove ieri, come ricordavi, due persone sono morte mentre cercavano di allontanare le fiamme dalle proprie abitazioni, e da ore i mezzi stanno cercando di sedare un altro incendio, stavolta alle spalle di Gioia Tauro, che ha toccato pure una discarica. Situazione però nell'insieme in leggero miglioramento. Simona. Sì, Raffaella, c'è anche un altro problema che sta emergendo in queste ore, ed è quello che riguarda le punizioni, le pene per gli incendiari. Da questo punto di vista pare che poche persone siano finite in carcere effettivamente. Eh sì, le leggi ci sono, e va detto che sono state anche progressivamente inasprite negli anni, tanto che oggi si rischia fino a 15 anni di carcere. Ma esiste un problema di identificazione dei responsabili degli incendi e di condanna, tanto che oggi in carcere per incendi boschivo doloso sono in 17. Va anche detto però che a volte si contestano più reati, e per questo le statistiche non sempre hanno una fotografia, diciamo così, nitida. Di sicuro però si impone anche il tema di dare più strumenti e forse anche più formazione a chi dà la caccia ai piromani, e lo riconosce lo stesso sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, che rivendica l'importanza di aver approvato in questa legislatura la riforma degli ecoreati e annuncia un piano straordinario del governo per coordinare e intensificare forze e risorse in questi mesi di un'emergenza quest'anno più grave che in passato. Sentiamo il sottosegretario Ferri. Le norme ci sono severe, c'è difficoltà a trovare gli autori del reato, c'è un problema di tecnica investigativa. La legge quadro sugli incendi boschivi prevede un insieme di misure di prevenzione, più formazione, più educazione, più coinvolgimento anche della società civile. Questo accorpamento sta dando dei problemi? L'accorpamento va nella direzione della semplificazione e della razionalizzazione, tanto che sul territorio sono rimasti gli stessi uomini. Forse con troppi pochi mezzi. Ancora. So che il governo sta lavorando per un piano straordinario a tutela del patrimonio e anche antincendio, un piano straordinario proprio per intensificare e rafforzare questo coordinamento. Non è un problema di risorse, le risorse saranno messe, sarà una organizzazione capillare, un controllo che però deve essere rimesso non solo alle forze dell'ordine, ma davvero un appello anche a tutti i cittadini. E grazie dunque alla nostra Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Andiamo all'estero adesso, alle notizie che arrivano da Gerusalemme, dove l'esercito israeliano ha ucciso tre uomini armati che hanno aperto il fuoco nella spianata delle moschee, appunto a Gerusalemme. Gli assalitori, che erano arabi israeliani, sono stati, così dice l'esercito, neutralizzati. Sono morti due agenti, un terzo è ferito. La polizia ha evacuato e chiuso appunto la spianata delle moschee. Per capire a cosa dobbiamo questa nuova recrudescenza della violenza, ci colleghiamo con Ugo Tramballi, commentatore ed editorialista su questi temi del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno, dacci un'idea e cerca di farci capire. Buongiorno, è difficile capire, nel senso che non è in corso un'offensiva di qualsiasi genere, c'è semplicemente la calma piatta, assenza totale processo di pace di qualsiasi genere. Anche Donald Trump ha constatato immediatamente che non c'è possibilità di riprendere il dialogo di pace, una trattativa, un negoziato qualsiasi, e dal campo salgono di tanto in tanto queste violenze. È abbastanza strano il tipo di attentato, di assalto che è stata fatta stamattina alla spianata del Tempio. Probabilmente è stata fatta proprio per fare quello che gli israeliani poi hanno fatto, cioè per bloccare la preghiera del venerdì. Era dal 1990 che non accadeva nemmeno negli anni più cupi della seconda intifada, era mai successo che la preghiera del venerdì fosse sospesa e chiusa interamente la spianata del Tempio. Forse era proprio questo l'obiettivo degli assalitori, cioè quello di in qualche modo di aumentare la tensione, perché ovviamente i musulmani non gradiscono queste chiusure. Ti ringrazio, grazie per questo commento e per questa analisi a Ugo Tramballi del Sole 24 Ore. Veniamo a Parigi, dove Donald Trump incontra il suo omologo francese. Non si risparmia negli applausi il presidente americano Trump, che il suo omologo francese Macron ha voluto sul palco d'onore in Place de la Concorde per assistere alla parata militare che apre la festa del 14 luglio, che quest'anno coincide con i 100 anni dall'entrata in guerra degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale. E dal palco Macron ricambia l'entusiasmo. Les États-Unis d'Amérique sont de ceci. Nella nostra storia abbiamo trovato degli alleati, dice, degli amici che sono venuti in nostro soccorso e dai quali nulla mai ci separerà. Poi il presidente ringrazia l'esercito della libertà e dei diritti, dice, che combatte per consentirci di vivere secondo le regole che abbiamo scelto di darci. Vive la République! Vive la France! Si stringono calorosamente la mano Macron e Trump a fine discorso, mentre le due First Lady si scambiano un bacio frettoloso. Gli americani partono, Macron resta tra i militari. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo all'Italia adesso, false opere alla mostra di Modigliani a Genova, 3 indagati, 21 opere sequestrate, sentiamo. 21 opere tra i 30 dipinti e gli altrettanti disegni provenienti da varie collezioni di tutto il mondo esposti a Palazzo Ducale a testimoniare il percorso artistico di Modigliani potrebbero non essere del grande artista livornese. Falsi, insomma. A denunciarlo era stato tempo fa un collezionista d'arte toscano. I carabinieri del nucleo tutela del patrimonio artistico di Roma avevano avviato le indagini avvalendosi di esperti e oggi è arrivato il provvedimento della Procura di Genova. Le 21 opere dubbie sono state poste sotto sequestro e affidate alla Fondazione Palazzo Ducale nominata custode giudiziale. I nomi di 3 persone estranee alla struttura espositiva sono stati iscritti sul registro degli indagati. Contemporaneamente la direzione di Palazzo Ducale ha deciso di chiudere la rassegna dedicata a Modigliani con 3 giorni di anticipo sul calendario. Era stata inaugurata il 16 marzo ed era stata visitata da oltre 100.000 persone. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Sono stati diffusi oggi i dati sul debito pubblico e anche quelli sull'inflazione, sul carrello, cosiddetto carrello della spesa. Sentiamo. Numeri quelli di Banca Italia riferiti al mese di maggio, con il debito che sale in un mese di 8,2 miliardi a quota 2.278,9 miliardi. L'incremento, spiegano dall'Istituto di Via Nazionale, dovuto principalmente al fabbisogno mensile delle amministrazioni pubbliche, 7 miliardi. La parte restante è suddivisa tra disponibilità liquide del Tesoro, premi all'emissione e al rimborso, rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione, variazione del tasso di cambio. In crescita nei primi 5 mesi dell'anno sempre, secondo Banca Italia, le entrate tributarie più 1,4% sul 2016 a 154 miliardi. Altro fronte quello dell'inflazione. L'Istat conferma il rallentamento del costo della vita a giugno 1,2% annuo dall'1,4 di maggio. La frenata dell'inflazione per il secondo mese consecutivo si deve principalmente alle componenti merceologiche i cui prezzi presentano maggiore volatilità. Si tratta principalmente, spiega l'Istat, degli andamenti di frutta, verdura e carburanti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A termine di una trattativa piuttosto serrata è stato raggiunto oggi l'accordo tra il gruppo Intesa San Paolo e i sindacati del credito sugli esuberi delle banche venete. L'accordo prevede 4.000 prepensionamenti su base volontaria, di cui almeno 1.000 nel perimetro delle ex Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre di quest'anno. Mauro Bossola, segretario generale aggiunto della FABI, il sindacato di maggioranza dei bancari, intervistato da Anna Marino. Noi con questo accordo evitiamo 4.000 licenziamenti, spalmiamo i 4.000 licenziamenti in uscite volontarie, li trasformiamo in uscite volontarie attraverso il fondo di solidarietà e riusciamo anche a collocare 3.000 di queste uscite anziché nel perimetro delle ex banche venete, che non avrebbe potuto sopportare, su tutto il perimetro di Intesa San Paolo, che ovviamente in Italia è estremamente più ampio, conta circa 75.000 dipendenti e quindi è in grado di assorbirle. Quali sono i tempi di riassorbimento da parte del fondo di questi esuberi? Abbiamo un obbligo di chiudere la partita entro il 2019. Entro il 2017 verranno raccolte tutte le domande, a partire da quelle delle banche venete, che saranno appunto indirizzate verso il migliaio, e successivamente all'interno del gruppo Intesa San Paolo per raccogliere le ulteriori 3.000 domande che sono necessarie a completare l'impegno. E ora occupiamoci di migranti. Come previsto, quella dei giorni scorsi era solo una tregua. Gli sbarchi verso le coste italiane sono ripresi e anche in maniera consistente. Da questa mattina a sabato saranno circa 7.000 gli arrivi, frutto di oltre 20 operazioni di salvataggio. Il gruppo più numeroso, quello sbarcato a Catania questa mattina con la nave 18 della Guardia Costiera, a bordo 1.433 persone, tra cui un centinaio di minori. Sempre questa mattina, attraccata a Salerno, la nave di Medici Senza Frontiere con 935 migranti. Brindisi invece ne sono arrivati 860 con una nave a bordo della quale durante il trasporto è nato un bimbo, il piccolo Cristo. E intanto i migranti resta tema di scontro politico, in particolare dopo la famosa frase di Renzi "aiutiamoli a casa loro", un dibattito nel quale interviene anche Nunzio Garantino, capo dei vescovi italiani. Aiutiamoli davvero a casa loro, ma diciamo dove, quando e con quali risorse, altrimenti, dice, rischia di essere un modo per scrollarsi di dosso le responsabilità. Tutto questo mentre a Tripoli il ministro dell'interno Minniti ha proposto ai sindaci libici un patto contro i trafficanti di uomini. Smettete di tollerarli e noi sosterremo i vostri progetti di sviluppo economico. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La giornata sportiva vede due uomini in primo piano, si tratta di Bonucci e Aru, naturalmente su due sport diversi. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, altro che due uomini al comando. Sì. Aru del Tour de France, un Tour de France che francamente così non ci aspettavamo. Aru l'ha acceso, era un tour partito in quasi con rassegnazione da parte dei tifosi italiani, perché insomma Froome è stato il dominatore di tutte le ultime edizioni, ha una super squadra, Aru era reduce da un infortunio e invece si è letteralmente incendiato ieri, prima tappa pirenaica. Aru che di nuovo scatta in faccia a Froome e gli sottrae la maglia gialla. È chiaro che il vantaggio è ridottissimo, 6 secondi, non possono bastare, Aru dovrà andare ancora all'attacco. E poi il grandissimo movimento di mercato, il grandissimo colpo di mercato, Bonucci è in arrivo a Milano, sta arrivando proprio fisicamente a Milano, ed è il nuovo grande colpo del Milan insieme a Biglia dalla Lazio. A questo punto mi viene voglia di dire che il Milan è molto vicino al Napoli, è molto vicino alla Juventus ed è alla pari del Napoli. È chiaro che è una squadra tutta nuova da assemblare, ma il materiale è di primo ordine, Simone. Grazie Carlo, tutto, hai parlato di materiale, tutto materiale anche per tutti i convocati a partire dalle 14, sicuramente ne parlerete. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Parleremo molto di incendi, ci sono delle brutte notizie che arrivano in questi minuti da Sciacca, provincia di Agrigento, andremo in Calabria e poi parleremo anche, ve lo abbiamo detto, beh, è stato il nostro tormentone, se volete, negli ultimi 4 mesi, di Igor il Russo, o meglio, Igor il Serbo, il killer del quale si sono perse le tracce. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre in diretta qua su Radio 24 e anche in diretta video sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina Facebook di Radio 24. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato degli altri due casi di femminicidio di oggi, dopo quelli di ieri, 4 donne vittime di violenza di compagni, mariti, ex compagni o ex mariti nel giro di appena 2 giorni. Abbiamo parlato dell'attacco a Gerusalemme, della morte di 2 agenti israeliani, di incendi, e ci torneremo tra un attimo, e poi della vicenda di Genova. Potrebbero essere falsi 21 dei modigliani esposti nella grande mostra che ha attirato 100.000 persone ed è stata chiusa oggi, 3 giorni prima appunto della chiusura definitiva. Ci siamo occupati, come avete sentito, anche di ciclismo e calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo proprio, come vi dicevo, parlando di fiamme, di incendi, di roghi. Prima ancora di andare sulla stretta cronaca, permettetemi di fare una precisazione e presentare delle scuse. Lo abbiamo già fatto ieri, l'ho già fatto ieri dalla nostra pagina Facebook. Nelle ore scorse abbiamo dato la notizia che per appiccare il fuoco alcuni incendiari avessero usato dei gatti. L'idea è che li cospargano di benzina, gli diano fuoco e gli animali, correndo o arrampicandosi sugli alberi, portino le fiamme ovunque, oppure che gli si leghi alla coda uno straccio incendiato. È falsa, la notizia è falsa, notizie prive di ogni fondamento, hanno detto il presidente del Parco del Vesuvio e i vigili del fuoco. È probabile in realtà che le carcasse di questi animali siano rimasti bloccati all'interno degli incendi e siano semplicemente morti. Solitamente siamo molto attenti a queste cose, sia da questa parte del vetro, insomma, all'interno degli studi, sia dall'altra parte, con Laura Faggin che mi ha accompagnato per tutta la trasmissione. In quest'anno abbiamo sempre cercato di verificare bene, tripla verifica delle cose, soprattutto quando le notizie sembrano esagerate come in questo caso. A volte abbiamo abbandonato delle storie a una sola mezz'ora dalla diretta per il semplice fatto che non c'erano abbastanza verifiche, oppure il titolo di giornale o online che avevamo letto era un po' esagerato e quindi non eravamo per nulla convinti. Questa volta evidentemente ha giocato un po' di stanchezza la penultima, terz'ultima trasmissione prima della pausa estiva. Ve ne chiediamo scusa, vi sembrerà un'inezia perché poi i crimini che hanno commesso queste persone sono comunque gravi a prescindere dagli inneschi che possano aver usato, e però in un ambiente come questo dell'informazione, nel quale spesso circolano notizie false, notizie sbagliate, tutto quello che volete, anche un'inezia come questa è importante non diffonderla. Francesca Valenti, la sindaca di Sciacca, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Anche se non mi sembra che sia una buona giornata, siete stati costretti ad evacuare delle case, ho capito bene? Sì, abbiamo avuto diversi focolai di incendio, uno poi in particolare in pieno centro storico, e quindi è stato necessario evacuare delle case, dei palazzi. Per fortuna adesso tutto è sotto controllo, e tutti i focolai sono sotto controllo, sono già in bonifica, e quindi il peggio ci auguriamo sia passato. Vi augurate che sia passato il peggio? Sono state ore intense, mi è sembrato di aver capito, sì, Valenti, sì. Già da stamattina, sì, no? Sì, assolutamente sì. E per fortuna la macchina si è mossa immediatamente e bene, con l'aiuto di tutti, del gruppo della Protezione Civile, dei volontari. Abbiamo avuto veramente sostegno da parte di tutti. E questo, l'elemento positivo. Immagino, sindaca, che si tratti in gran parte di incendi dolosi. Adesso si attiveranno, è verosimile, considerato che più focolai sono diversi, quindi è verosimile che sia così, però dico ovviamente le indagini adesso verranno fatte. Si vedrà. Lo chiedo anche a lei, che è una persona che sul territorio, tra l'altro gireremo anche la domanda tra un attimo a Mario Oliverio, che è il presidente della Regione Calabria, che è in linea con noi, ma quali sono le motivazioni? È una domanda che stiamo ponendo un po' a tutti, perché in realtà la legge prevede che non si possa più costruire, no? Nei luoghi nei quali ci sono stati degli incendi, in particolare degli incendi dolosi, e quindi la motivazione edilizia non esiste più. Quali possono essere le motivazioni dietro gesti di questo genere? Quello di oggi proprio io non riesco a capire quale possa essere la motivazione, perché un incendio in centro storico, dico, è una cosa che ovviamente poi non ha nessuna conseguenza se non quella devastante dell'incendio. Quindi quale possa essere la motivazione? Non credo che ci sia una motivazione. La ringrazio, grazie a Francesca Valenti, sindaca di Sciacca, neo eletta sindaca di Sciacca, tra l'altro. Mario Oliverio, appunto, presidente della Regione Calabria, buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Mi sembra che la situazione sia un po' più tranquilla oggi, no, da voi? Ma la situazione è un poco, più tranquilla, come dice lei, rispetto a ieri e all'altro ieri, che sono state due giornate infernali nella nostra regione. Noi abbiamo ricevuto nella giornata dell'altro ieri 241 segnalazioni di incendi, quindi in una regione come la nostra avere contemporaneamente 241 focolai, lascio immaginare che cosa comporta. E solo grazie alla sinergia che c'è stata tra i diversi dei corpi dello Stato, la Regione, la Protezione Civile, Calabria Verde, le forze armate, le forze di polizia, i vigili del fuoco, che si è riusciti appunto a far fronte ad una situazione davvero di straordinaria emergenza. Naturalmente è alimentata dalle condizioni oggettive, dalle condizioni climatiche straordinarie che presentano queste giornate, ma non c'è dubbio che il numero di incendi contestuali in diversi territori non può non avere, una mano criminale dietro. C'è una mano criminale dietro. Addirittura lei ipotizza un coordinamento, Oliverio, da quel che dice? Io non ipotizzo coordinamento, ma non c'è dubbio che c'è un denominatore comune. Non ho elementi per dire che c'è un coordinamento, non voglio fare allusioni a cose che delle quali non ho elementi precisi, però non c'è dubbio che c'è un denominatore comune, e il denominatore comune è la mano dell'uomo. E lei faceva riferimento alla legge che vieta di costruire. Io ero parlamentare e sono stato uno dei proponenti di quella legge in quel periodo, quando si vietò sulle aree sottese a fuoco l'edificazione. Tuttavia io credo, e per questo ho convocato l'unità di crisi proprio stamattina, di avanzare un disegno di legge, lo farò nella prossima riunione della conferenza di regione, lo farò al Parlamento, un disegno di legge per determinare ulteriori divieti, per disincentivare, penso per esempio all'uso della massa legnosa. Non è possibile che nelle aree sottese si possa poi intervenire per prelevare la massa legnosa. Penso per esempio all'uso del pascolo, cioè penso a tanti piloni che oggettivamente possono essere il terreno sul quale appunto si alimentano anche interessi più o meno. Oliverio, qualche ascoltatore ce lo scrive sempre e qualche sospetto circola anche su chi poi si occupa dello spegnimento degli incendi e per questo deve essere pagato, cioè che ci sia un interesse economico di questo tipo: creo l'emergenza e poi vengo chiamato per sistemare l'emergenza. Ma guardi, io credo che anche su questo bisogna riflettere nel senso che anche l'esperienza di questi giorni ci dice che è stata contrastata questa situazione grazie al coordinamento che c'è stato tra il sistema di spegnimento aereo nazionale e quelli regionali, sia a terra che con elicotteri. Noi come Calabria siamo provvisti anche di un sistema di spegnimento con elicotteri. Tuttavia credo che anche qui vada fatta una riflessione, nel senso di rafforzare il sistema di spegnimento nazionale, aereo nazionale, perché questa cosa qui, in una condizione di straordinaria emergenza, qual è quella che si è determinata, che ha visto contemporaneamente tutto il sud, la Calabria, la Campania, la Sicilia in modo particolare, ma tutto il sud coinvolto, pone la necessità di una riflessione, perché i cambiamenti climatici determinano questi fenomeni non più su scala territoriale locale, ma su vasta scala, su scala diciamo di area. Non è un caso che è l'intero sud che è stato coinvolto, in altri momenti c'è stato l'intera area delle regioni del nord che sono state coinvolte, mi ricordo negli anni scorsi la Liguria, il Piemonte, e quindi si pone il problema di un adeguamento della strategia di contrasto. Questo sicuramente. Oliverio, l'ultima domanda che le voglio fare, ed è una questione che ci sottopone un ascoltatore via SMS, ed è quella che riguarda il famoso catasto degli incendi, perché nella legge che lei stesso firmò a questo punto era prevista la realizzazione di un catasto degli incendi proprio per far sì che non ci si costruisse sopra, e questo catasto però non è stato ancora realizzato sostanzialmente, e quindi magari qualche comune può avere buon gioco a dire, insomma, a dimenticarsi, aperte virgolette, che in un certo luogo c'è stato un incendio. E anche qui bisogna essere più cogenti. Infatti nella proposta di legge che noi stiamo per definire, che avanzeremo la prossima settimana proprio al Consiglio dei Ministri, al Parlamento e nella Conferenza Stato-Regioni, noi prevediamo anche praticamente sanzioni per inottemperanza, perché è necessario che le leggi vengano poi rese efficaci. Da questo punto di vista non solo il catasto bisogna prevedere forme anche di inasprimento delle sanzioni per coloro i quali appunto si macchiano di questo reato. Chiaramente non è possibile che si continui come se fosse ordinaria amministrazione. Io credo che, così come si è fatto per il codice della strada, bisognerà anche per quanto riguarda il codice ambientale prevedere pene serie, pene appunto adeguate a quelli che si macchiano di reati contro l'ambiente, a partire appunto dalla provocazione di incendio. Grazie Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Ci ritroviamo subito dopo. Il nostro giro per l'Italia ci porterà ad un avvocato, il quale è stato accusato di vilipendio alle istituzioni per aver detto che il decreto Minniti sui migranti non gli piaceva. E poi andremo da Igor il russo, cioè andremo da lui. E nessuno sa dove sia, andremo dal collega che ci racconterà un po' quali sono le ultime evoluzioni. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: in 48 ore, 4 donne uccise e una quinta gravissima. Attacco a Gerusalemme, morti 2 agenti israeliani. E incendi, sono 2 le vittime in Calabria, evacuate delle case nell'Agrigentino, a Sciacca. Potrebbero essere falsi 21 dei modigliani esposti nella grande mostra di Genova. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia ci porta adesso ad una manifestazione contro il decreto Minniti sui migranti. Ora, potete avere tutte le opinioni che volete, ma è importante, visto che in quest'ora se ne discute tanto, che quando le esprimete queste opinioni, se hanno una loro decenza, se non sono delle opinioni che appunto, per esempio, possono offendere personalmente qualcuno, insomma, non siate perseguiti per questo. C'è questa manifestazione organizzata tra l'altro da Amnesty International. In questa manifestazione, forse possiamo far sentire un audio. È un problema? E questo è uno dei passaggi più concitati, diciamo, di questa manifestazione. E forse abbiamo anche l'audio di un intervento che possiamo far sentire. Vediamo se ce l'abbiamo. Ma è importante denunciare, secondo me, oggi, a 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto, del primo decreto che porta la firma Orlando Minniti, denunciare il fatto che i rifugiati richiedenti sono destinatari di norme allucinanti, norme che eliminano qualunque tutela, qualunque possibilità appunto per i migranti di stare nel nostro paese in un modo degno. Allora, potrete essere o non essere d'accordo con Gianluca Di Candia, che è un legale, un avvocato che si occupa di diritto dell'immigrazione. Di Candia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Che è la persona che avete sentito in quest'audio, e però sì. Fatto sta che è accusato o indagato al momento per vilipendio delle istituzioni, Di Candia, per questo comizio? Sì, accusato di vilipendio degli organi costituzionali, ai sensi dell'articolo 290 del codice penale, e minaccia o violenza pubblico ufficiale ai sensi del 336 dello stesso codice. Mm. E la seconda, diciamo, la seconda accusa, quella arriva dopo, cioè di fatto quando voi avete iniziato a manifestare, quando lei ha parlato, è sceso dal palco, dopodiché i poliziotti hanno tentato di identificarla, no? Sì, io ero stato invitato da Amnesty a parlare e a esprimere i miei giudizi tecnici anche sui decreti, visto che su questo lavoro, e i dubbi, le questioni di legittimità costituzionale possibili, quindi, che saranno sollevate poi dagli addetti ai lavori, e questioni di ingiustizia sociale. E quindi quello che dico è i decreti sono una dichiarazione di guerra non alla povertà generalizzata, e quindi non tendono a eliminare quella, ma invece tendono a non far vedere gli indecorosi, quindi i poveri e gli ultimi della società. Mm. Vabbè, che è una posizione, però è una posizione politica, insomma, uno può aver questa, ne può aver altre, certo. Però insomma va in una piazza e la esprime. A quel punto scende, i poliziotti la identificano, si creano dei capannelli intorno ai poliziotti. Lei reagisce, da quel che ho capito, anche abbastanza male con i poliziotti, no? Dice: ma perché mi dovete identificare? No, io dico sì, semplicemente chiedo ragione del fatto che mi stanno identificando, però fornisco educatamente il documento, il tesserino, e continua lì, insomma, non succede fondamentalmente nulla di che. Pensavamo che fosse finita questa cosa già in una piccola, ecco, una piccola intimidazione del genere, mentre invece poi è continuata. Giovedì scorso ho avuto un invito di comparizione da parte del commissariato di zona, sono andato e ho dovuto eleggere domicilio, appunto perché ho scoperto lì essere accusato di questi due reati. Tra l'altro il vilipendio è un reato, lo dico così, che deve avere per essere perseguito l'autorizzazione, la dovrà avere del ministro di grazie e giustizia. E quindi quindi è Orlando, che eventualmente deve autorizzare, sì, deve autorizzare questa, sì, questa cosa. Lei non sente di aver detto frasi che possano caratterizzarsi come vilipendio all'interno di questo comizio o successivamente con i poliziotti? No, assolutamente no. Ho detto appunto spesso critiche tecniche, continenti, ragionevoli e critiche che assolutamente io sono andato anche a vedere giurisprudenza penale, perché l'ultima giurisprudenza degli anni 70 su questo, e si parla della possibilità di criticare anche in modo aspro, ma in modo civile, leggi della Repubblica, insomma. Sì. Perché? Anche perché gli addetti ai lavori devono esprimere delle dubbi e delle perplessità, altrimenti okay, non avrebbero ragione. Certo. È sostanzialmente quello che ha fatto. Vedremo come si evolverà questa vicenda. Intanto grazie a Gianluca Di Candia per essere stato nostro ospite. Non potevamo che chiudere questa stagione di Effetto Giorno con Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Ciao Daniele, bentornato ai nostri microfoni. È qualche giorno, qualche settimana che non ci sentiamo, però insomma no, non potevamo che chiudere così. Ciao Daniele. Ciao a tutti, eccoci qua. Eccoci, eccoci. Tra l'altro oggi abbiamo anche notizia, perché da quel che ho capito la famiglia del barista di Budrio ha messo una taglia su Igor il Russo, o no? Sì, sì, sì, la stanno valutando assieme ai propri avvocati e anche il comitato di amici di Davide Fabbri di Budrio, stanno facendo questa valutazione. Una taglia a chi fornirà elementi utili alla cattura di Igor Vaclavich e Norbert Fer. Servo, sì, o russo, a seconda di chi lo vuole. Sì, sì, come volete. Noi lo chiamiamo Igor il Russo perché ormai è noto così, sì, quindi punto e basta. È Igor il Russo. Le ricerche sono durate 90 giorni, lo ricordiamo più o meno, Daniele, non mi sbaglio? Come... Il fatto di, occorre diciamo, sottolineare che le ricerche continuano ancora. Ripeto, cioè noi come tutti i giornali, diciamo, abbiamo ovviamente dilatato molto la copertura giornalistica, ma nei giorni scorsi avevamo fatto il punto della situazione del bilancio a 100 giorni dalla sua di ricerche, e con il mio collega che è Giorgio Carnaroli siamo andati a fare un giro per le zone, e ovviamente è tutto, diciamo, tutto molto ridimensionato. Se prima c'erano 100 persone, adesso ce ne sono 10, ecco, tanto per dare dei numeri così, per dare una dimensione. Comunque ci sono ancora, sì, carabinieri, posti di blocco e ricerche. E soprattutto, ripeto, per l'ennesima volta ci si tratta di un lavoro di assoluta intelligence, proprio perché questa è una, sì, persona che adesso deve essere trovata, in un modo o nell'altro. In qualche modo deve essere trovata. Il fatto sta che appunto dopo tutte queste ricerche non è stata trovata. Ormai la zona, solo un sì o un no, Daniele, sarà un'isola felice, perché con tutti questi posti di blocco praticamente non ci sarà più un crimine nemmeno, no? Sì, ecco, questo è uno degli aspetti positivi, perché questa è la conferma ulteriore che laddove c'è un controllo del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine, si riesce, diciamo così, ad avere questo controllo per sapere chi hai in casa. Questa è una cosa molto importante. Allora, grazie al nostro Daniele Predieri. Daniele, ti auguro una buona estate. Noi chiudiamo qua, appunto, effetto giorno. Poi ci salutiamo per bene, ma prima andiamo a sentire cosa succede sulle strade. E Mario Platero.